Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata, sembra davvero una buona giornata, siamo contenti per i risultati calcistici. Saluto allora subito Paolo Zucca, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, perché è un grandissimo tifoso e so che ieri sera si sarà sicuramente divertito non solo a chiudere le pagine di Plus ma anche magari a dare una sbirciatina alla partita. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, più di una sbirciatina. Ecco, infatti, quindi avrete capito che naturalmente stamattina abbiamo la nostra puntata in collaborazione con i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore. Lo facciamo perché hanno scelto un tema molto interessante da approfondire sabato, ma anche perché diciamo che questa settimana Plus 24 celebra anche il decennale dalla sua nascita, per cui si è scelto anche di fare un punto della situazione che riguardi 10 anni di vita dei risparmiatori. Ne parleremo diffusamente. Perché? Perché se pensiamo agli ultimi 10 anni non possono che venirci in mente grandi cambiamenti e trasformazioni sotto i più vari aspetti nel mondo che ci circonda. Limitandoci ai temi del risparmio, del consumo, delle esigenze delle famiglie che raccontiamo qui a Salva Danaio, non possiamo che identificarli come gli anni in cui ad un certo punto la crisi è intervenuta a scombinare totalmente le carte, modificando le esigenze, le possibilità, creando nuove preoccupazioni e obiettivi di vita diversi. Come è cambiato l'atteggiamento del risparmiatore in questa decade, 10 anni di cui metà passati a raccontare e a spiegare e ad affrontare di conseguenza anche la crisi prima finanziaria e poi economica. Oggi possiamo dire che gli italiani sono più informati, sono più attivi, ma per forza di cose sono anche vittime dell'incertezza e sempre più spesso alla ricerca di soluzioni sicure a cui affidarsi. In ogni caso, sempre più protagonisti delle scelte finanziarie. Questo è l'identikit di risparmiatori ed investitori italiani che con l'arrivo della crisi e l'aumentare delle preoccupazioni hanno gradualmente orientato le loro scelte verso abitudini differenti e nuovi progetti. Oggi Salva Danaio ricostruisce in qualche modo e commenta con i suoi esperti e con gli ascoltatori il profilo del risparmiatore italiano per come è cambiato negli ultimi 10 anni. Lo faremo anche con l'aiuto di un sondaggio realizzato proprio da Plus 24 e il Sole 24 Ore in occasione di questo decennale insieme all'Istituto IPR Marketing. Per cui saluto subito Antonio Noto, direttore di IPR Marketing. Buongiorno, perché è stata proprio questa società che ha organizzato e elaborato il sondaggio. Noto, buongiorno. Ecco, buongiorno, proprio con la telefonata che è caduta, non importa, adesso l'andiamo a recuperare. Ringrazio e saluto anche per essere con noi questa mattina Giovanna Cerini del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, perché anche Banca Intesa San Paolo ha presentato proprio pochi giorni fa la sua indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2012. Sono molti i temi interessanti che sono emersi da questo monitoraggio, tra l'altro anche una parte monografica molto interessante dedicata ai cosiddetti baby boomer nati tra il 51 e il 76, e vedremo che cosa emerge anche dall'esplorazione di questa area anagrafica. Dottoressa Cerini, buongiorno. Buongiorno. Grazie anche a lei di essere con noi. Chiaramente non parleremo solo dei risparmiatori, ma anche del mondo della consulenza, come ha imparato ad approcciare diversamente i risparmiatori in questi anni, ad affrontare i momenti di difficoltà che sicuramente sono stati molto importanti, molto consistenti e notevoli anche per chi appunto deve suggerire le scelte di investimento. Stefano Grassi, vice direttore generale di Banca Generali, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, microfoni aperti agli ascoltatori come sempre. All'800 24 0024 raccontateci come affrontate il presente, come avete affrontato questi anni, guardandovi indietro negli ultimi 10 anni. Che risparmiatore eravate 10 anni fa? Come avete modificato il vostro atteggiamento in questa decade? Come ribadisco, negli ultimi 5 anni soprattutto difficilissima, anni appunto molto complicati, per cui fatelo come sempre al nostro numero verde, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Paolo, allora, come avete deciso di festeggiare i 10 anni di vita di Plus 24 del Sole 24 Ore, oltre che invitare a mangiare la torta Antonio Noto, che per voi ha elaborato questo sondaggio? Ma in verità, andando avanti a lavorare, come sapete usciamo 52 numeri all'anno, tutte le settimane siamo presenti, siamo presenti anche quest'anno anche in zona Ferragosto, e cercando di analizzare la situazione attuale. Gli ultimi 5 anni sono stati 5 anni molto difficili, diciamo da Lehman in poi, però il prodotto Plus nasce nel 2002, quando c'era l'Argentina, quando ci fu il caso Cirio. Quindi l'inaugurazione con il botto e nella migliore delle tradizioni continuate su questi temi, insomma. Sì, diciamo che io vedo una svolta da quel momento. Cioè l'Argentina, Cirio, più tardi Parmalat, hanno segnato un punto di svolta rispetto a un certo ottimismo, forse eccessivo, che c'era nei confronti dell'introito finanziario per la famiglia. Cioè nella ricerca che è stata presentata da Intesa e dal Centro Einaudi, una domanda molto interessante che riguardava la borsa, e sostanzialmente chi è stato interpellato ha risposto: non vado più in borsa per arricchirmi subito. Questa secondo me è molto importante, è una concezione del risparmio come pianificazione, magari più noiosa, indubbiamente più noiosa rispetto al momento di borsa, però più realistico. Da questo punto di vista la maturazione è stata notevole, trasmissioni come questa che stiamo facendo hanno contribuito, così tutto il gruppo Soldi 24 ore, Plus, tanti altri operatori. È una crescita complessiva, dobbiamo esserne felici. Tra l'altro stavo riflettendo sul 2002, quando appunto è nato Plus, e voi avevate puntato come prima copertina proprio alla questione del crack dell'Argentina e alle conseguenze pesantissime per migliaia di risparmiatori italiani, che tra l'altro riflettevo appunto sulla relazione tra il crack argentino e l'investimento in borsa, risparmiatori che erano reduci anche dallo scoppio della bolla high tech, per cui forse anche quello aveva contribuito a modificare l'atteggiamento nei confronti del mercato azionario, Paolo. Assolutamente sì, e poi pensa cosa puoi pensare quando uno Stato non ti paga più, lo Stato argentino. Noi in questo momento stiamo ancora ragionando di questo, ma pensa che trauma è stato. Per certi aspetti abbiamo maturato l'idea che anche uno Stato può non restituire il denaro. Allora, Antonio Noto, non riusciamo a mantenere appunto ferma la telefonata, non importa, adesso magari cominciamo allora, dottoressa Cerini, avevamo in mente di cominciare ad interpellarla dalle 12.30 per sentire che cosa racconta il rapporto sul risparmio di Intesa San Paolo, l'anticipo di qualche minuto, tanto le tematiche non cambiano, e allora noi siamo ritornati indietro con Plus di 10 anni per cercare di capire appunto che cosa è cambiato anche nella mente, nell'atteggiamento del risparmiatore. Il vostro monitoraggio, la vostra indagine sulle scelte finanziarie degli italiani ha un arco di tempo invece molto più ridotto, perché ha guardato, immagino, a quello che è successo negli ultimi 12 mesi. Questa indagine l'avete condotta fra gennaio e febbraio di quest'anno, intervistando credo 1 migliaio di capi famiglia. Ci racconta quali sono le macro evidenze che sono emerse? Intanto una brevissima presentazione dell'indagine. Effettivamente sono stati intervistati 1053 capi famiglia in possesso di conto corrente bancario postale. E l'indagine, come lei giustamente diceva, è stata condotta tra il 30 gennaio e il 24 febbraio del 2012. In più poi abbiamo deciso di fare questo sovracampionamento di 400 interviste sui baby boomer. Le macro evidenze. Intanto l'evidenza della crisi che si manifesta in un allargamento della quota di chi dichiara insufficiente, il proprio reddito insufficiente a coprire le necessità della vita quotidiana, è un'evidenza che è emersa presso il 12,5% del campione che è stato intervistato, ed l'aumento rispetto al 2011 è stato all'incirca di 3 punti percentuali. A questo deve essere, a mio avviso, aggiunto anche la considerazione del 28% di intervistati che ritengono il loro reddito appena sufficiente a coprire la necessità della vita quotidiana. E proprio da qui la seconda caratteristica, insomma il secondo messaggio che emerge dalla nostra indagine, che è quello relativo all'allargamento dell'area del non risparmio. Allora, è vero che la nostra indagine è congiunturale, ma possiamo riandare indietro, perché nasce da un lavoro molto lungo che ha condotto negli anni, addirittura nei decenni, il Centro Einaudi. Possiamo riandare indietro con la domanda: è riuscito a risparmiare qualcosa addirittura fino all'87? E nell'87 il 33,3% degli intervistati diceva di non essere riuscito a risparmiare qualcosa nel corso dell'anno. Ora siamo al 61,3%, quindi c'è un massiccio incremento, diciamo, nell'area del non risparmio. Senta, la interrompo, gli altri temi dell'indagine appunto li affrontiamo magari nel corso della trasmissione, perché ci sono tanti altri aspetti importanti, soprattutto relativi alla scelta degli strumenti di investimento. C'è anche una parte, come diceva appunto la dottoressa Cerini, che ci piacerebbe approfondire, relativa a quell'area che non risparmia più. Chi risparmiava prima e ancora può permettersi di farlo aumenta la sua quota di risparmio, se può farlo. Chi invece risparmiava moderatamente perché già accantonava a fatica, adesso addirittura deve rinunciare ad accantonare. Questo, potete immaginare, preoccupa molto le famiglie italiane, che invece sono abituate tradizionalmente ad essere delle formichine. Peraltro questo ci ha anche messo al riparo da effetti più forti della crisi. Antonio Noto, IPR Marketing, ce la facciamo adesso? Ci sente, la trattengo fino a quando riusciamo. Allora, ho già anticipato che per Plus 24 di questa settimana IPR Marketing ha condotto questa indagine su 1000 risparmiatori e avete fatto loro delle domande relativamente alle modalità con cui hanno affrontato questi ultimi 10 anni. Che tipo di risparmiatori sono diventati gli italiani? Devo dire che negli ultimi 10 anni, ma soprattutto probabilmente nell'ultimo anno, il risparmiatore italiano è diventato più maturo, è alla ricerca di maggiori informazioni scientifiche, di maggiori informazioni oggettive per poter far fronte ai propri investimenti. Faccio solo un esempio per dimostrare quello che ho detto: se solo 4-5 anni fa prevaleva il fai da te sugli investimenti rispetto alla consulenza, oggi è la consulenza che prevale sul fai da te, per cui c'è un bisogno molto alto di informazioni oggettive e una consulenza che si ricerca sia, diciamo, nei classici consulenti, che possono essere banche, società finanziarie e così via, ma anche dagli organi di stampa. Cioè, al secondo posto come canale di informazione compare appunto tutta la stampa, quella appunto legata anche poi, tra l'altro, adesso siamo a casa vostra ed è giusto anche menzionata, anche al Sole 24 Ore, a Plus 24, cioè tutta la stampa che riesce a fornire informazioni oggettive e quindi scientifiche ai consumatori. E il periodo di crisi probabilmente ha aumentato questo tipo di bisogno, nel senso che il risparmiatore italiano si è fatto prendere poco dal panico, pur essendo molto sfiduciato nel futuro, ma ha combattuto probabilmente la crisi cambiando atteggiamento rispetto agli investimenti, quindi passando da un fai da te a un investimento più razionale e più scientifico. Andremo poi adesso agli altri aspetti emersi da questa vostra indagine, dall'indagine condotta per Plus 24. Volevo subito far sentire alcuni ascoltatori all'800240024, perché l'indagine racconta sicuramente delle evidenze che noi non abbiamo nessun motivo di mettere in dubbio. Devo dire che poi, quando andiamo a sentire le persone che direttamente ci chiamano, emerge in maniera più forte questa condizione della non serenità nella quale molti risparmiatori oggi si trovano, anche se forse anche questa è un'altra faccia della medaglia di una condizione di maggior maturità nei confronti di ciò che ci circonda. Ida da Pescara si vuole far passare da semplice ascoltatrice, so bene che è una consulente che ci segue molto attentamente, tra l'altro anche una collaboratrice di Plus 24, interpellata molte volte. Spero di non aver parlato di un'Ida diversa. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Infatti immaginavo che fosse lei. No, è interessante il suo approccio, perché lei è una consulente finanziaria indipendente. Sì. E come vede cambiare le persone e i risparmiatori nei riguardi di chi fa consulenza e di chi suggerisce prodotti di investimento? Beh, esatto, io lavoro come consulente da 7 anni e io ho l'impressione che è vero che sono d'accordo che dal fai da te si cerca la consulenza di più. Anche informarsi da soli, si cerca un appoggio e non è fai da te, però non si cerca più la gestione, cioè nessuno è caduto con la voglia di mi faccio gestire da qualcun altro, e il risparmiatore vuole essere partecipe, cioè vuole essere partecipe e comunque in controllo delle decisioni e non affidare ciecamente qualcun altro. Quindi è d'accordo con il sondaggio, sono diventati protagonisti attivi delle loro scelte finanziarie. Questo in qualche maniera in che posizione mette anche chi fa la consulenza? Vi responsabilizza di più? Io penso che il consulente deve fare educazione, cioè non deve decidere per il cliente, deve affiancarlo, perché di solito le persone quando arrivano da me sono prese da un grande ansia, perché oggi oggi c'è anche ci sono troppe informazioni, nel senso con internet, blog, arrivano tante informazioni, e vedo che le persone hanno bisogno di poche informazioni che chiariscono. Quando collaboro con Plus noi cerchiamo di fare questo, è ovvio, ma anche altri lo fanno, ma è difficile per il risparmiatore comune. Spesso si sentono sopraffatti, e alcuni clienti miei dicono: Ida, perché io poi dico ai clienti di leggere alcuni libri, perché più capiscono, più si sentono partecipi alla decisione. È vero, Ida. Grazie, okay. Grazie per il suo contributo. Il problema è che naturalmente ha utilizzato un termine, Ida, molto forte. A volte si sentono sopraffatti, anche perché chiaramente il risparmiatore non è che nella sua vita fa solo quello, gestisce i suoi risparmi, fa anche altro, magari fa un lavoro anche di natura diversa, gestisce la famiglia, le problematiche appunto della giornata, le problematiche domestiche, per cui chiaramente quello diventa davvero un lavoro molto importante che va seguito con attenzione, e qualche volta non si è neanche nelle capacità di poterlo fare. Per questo c'è bisogno di un aiuto. Allora, avete sentito che stanno uscendo tanti temi interessanti da approfondire, lo faremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Continuate a chiamarci all'800 24 00 24 e continueremo a sentirvi tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme. Oggi Salvadanaio ritorna sui temi generali legati al risparmio, prendendo a spunto la copertina che verrà pubblicata domani da Plus 24 del Sole 24 Ore, che fa un punto della situazione su quello che è successo negli ultimi 10 anni. Perché? Perché Plus 24 compie 10 anni, e quindi si è cercato di guardare indietro, cercando di ricostruire anche il profilo nuovo del risparmiatore, quello che si è costruito proprio nell'ultima decade. Anni difficili, soprattutto gli ultimi 5, che quindi hanno condizionato molto l'atteggiamento di tutti noi anche nella scelta degli strumenti di investimento. Ci hanno cambiato atteggiamento nei confronti dei mercati, anche perché ogni giorno ci siamo abituati adesso a vivere di pane e spread, come sapete, per cui è molto interessante capire anche come sono cambiate le esigenze delle famiglie, ma come sono cambiate anche le richieste nei confronti di chi ci assiste nelle scelte ogni giorno. Tra l'altro stavamo facendo un calcolo con Paolo Zucca, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, su un piccolo confronto, anche un'altra partita tra le mail che arrivano di consulenza a Salvadanaio ogni giorno e le migliaia che hanno inondato le scrivanie dei colleghi di Plus 24 in questi anni. Sì, abbiamo voluto fare questo piccolo gioco, premesso che appunto il numero di domani è un numero d'attualità, però abbiamo voluto guardare un po' anche al nostro lavoro, e abbiamo visto che fra una cosa e l'altra, fra mail e soprattutto lettere cartacee, abbiamo gestito, diciamo, 8.000 richieste in 10 anni. E siamo andati a vedere anche un po' gli argomenti. Ovviamente ci sono reclami contro intermediari finanziari, che gestisce il collega Marcello Frisone, le lettere a Marcoliera, e poi molte altre richieste anche molto specifiche. Noi sembra che con il sito del Sole 24 Ore, con il Sole 24 Ore stesso, con questa trasmissione, con Plus, con quant'altro abbiamo in questo gruppo, in qualche modo abbiamo sempre colloquiato e stiamo colloquiando con i risparmiatori, e in particolare voi avete la fortuna anche di parlare per radio, quindi sentirli anche con la loro voce. Beh, il quadro che ne risulta è veramente, come diceva anche Noto, come dicevano anche gli altri, è una ricerca di un aiuto, e magari cercarlo fra coloro che non hanno conflitti di interesse. Allora, non c'entra nulla, Paolo, ma questa te la devo leggere, perché Fiorenza, un'ascoltatrice, ci scrive: molti complimenti per la trasmissione che seguo con interesse. Non c'entra nulla, comunque volevo mandare tanti cari auguri di buon onomastico al dottor Paolo. Sì, in effetti, si chiama Fiorenza, questa ascoltatrice, cioè, tanto per dirti Fiorenza. Poi quanto si affezionano anche a noi, no? Certo, allora, andiamo a Stefano Grassi, vice direttore generale di Banca Generali. Ancora buongiorno, dottor Grassi. Buongiorno. Ci stiamo divertendo anche un po', perché certo, sa, non è che possiamo sempre parlare di spread e di borse che crollano. Oggi tra l'altro vanno molto bene, almeno una prima reazione positiva al vertice di Bruxelles c'è. Qualche ascoltatore dice già invece lunedì vedrete che scoppola, che prenderanno ancora i mercati. Noi speriamo di no. Detto questo, il dottor Noto non ce l'ha detto, poi magari glielo faccio approfondire, ma so per certo che una parte del sondaggio di PR Marketing tra i 1.000 risparmiatori interpellati, racconta anche che l'informazione più richiesta al momento dell'investimento in questo momento è quella relativa ai rischi connessi. Lo dicono anche i vostri promotori finanziari, dottor Grassi. Che cosa stanno raccogliendo fra le nuove esigenze dei risparmiatori che, come dicevo, hanno cambiato notevolmente il loro atteggiamento a causa degli scossoni dei mercati che abbiamo subito negli ultimi tempi? Beh, l'atteggiamento è cambiato in maniera radicale. Se pensiamo alla situazione che c'era 10 anni fa, soprattutto sui mercati azionari, sembrava che fossimo viventi in un mondo fantastico nel quale la crescita era inarrestabile e bastava mettere i soldi in borsa per guadagnare. Devo dire che la crisi ha portato, questo come unico elemento positivo, una maggiore consapevolezza che ogni investimento ha una tipologia di rischio. E sicuramente quello che ha cambiato drasticamente negli ultimi, diciamo, 24 mesi l'atteggiamento dei consumatori è la presa di coscienza che anche quello che era tradizionalmente un porto sicuro, un investimento sicuro, cioè l'investimento in titoli di Stato, non è proprio così sicuro, se non in termini, diciamo, di default, quantomeno in termini di volatilità. E questo è stata veramente, dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, quello che vediamo nei nostri clienti e nei risparmiatori che affidano a noi la loro gestione. La percezione che, appunto, un investimento nei government bond potesse essere anche un investimento a rischio. E chiaramente questo ha reso molto più complessa l'attività di investimento e credo che derivi proprio da questo l'esigenza che era manifestata nel sondaggio, che era emersa, di affidarsi a un consulente o qualcuno che lavorasse costantemente sui mercati, perché venendo meno questo tradizionale porto sicuro e quindi con questa nuova percezione di rischio, l'attività di investimento è diventata molto difficile, è diventata molto più incerta. E di fronte all'incertezza l'atteggiamento del risparmiatore è stato, da un certo punto di vista, chiudersi un po' nell'attività di investimento, cioè da un lato diminuire quello che era l'orizzonte temporale, cioè ormai gli investitori ci chiedono sostanzialmente spesso soluzioni di investimento che hanno un orizzonte piuttosto breve, 12, 15, massimo 24 mesi, quindi la pianificazione a lungo termine è un qualcosa che nella situazione di contesto attuale è molto più difficile. Anche perché, lo diciamo sempre, insomma, i livelli di borsa sono sui livelli che erano a 12 anni fa praticamente, per cui lei capisce, per chi vuole investire sul mercato azionario e gli si dice guarda, devi avere pazienza per almeno un decennio per avere dei risultati, chiaramente poi dipende dal momento in cui fai l'investimento e chiaramente ti può anche premiare, però se andiamo a vedere che questa crisi ha cancellato 12 anni di borsa, hai voglia a cercare di convincere le persone, no? Assolutamente, perché questa è quella che era una tradizionale regola dell'investitore, che allungando l'orizzonte temporale di investimento l'investimento in azioni era più premiante rispetto all'investimento in obbligazione, con i risultati degli ultimi anni questo paradigma è venuto sicuramente meno e quindi ha rimesso in gioco un po' quelle che erano le tradizionali regole dell'attività di investimento, quindi un orizzonte molto più breve, un orientamento maggiore verso la protezione del capitale, quindi per dirla in maniera semplice prima non prenderle e anche sostanzialmente una maggiore prevalenza verso strumenti di liquidità, cioè mantengo gli investimenti in liquidità e intanto aspetto che la nottata passi e vedo come si evolve la situazione. Ecco, ma Grassi, ma voi adesso cercate nel nuovo atteggiamento che avete dovuto adottare nei confronti dei risparmiatori che sono più spaventati rispetto al passato, che cosa fate? Li assecondate di più in queste paure, quindi cercate di condividere con loro anche queste paure, quindi cercando di far adottare loro, proprio perché devono essere accontentati, strumenti che proteggano al massimo il capitale, oppure intavolate anche un discorso, non lo so, in qualche caso cercando di far capire loro, se è il caso, poi magari anche voi non avete la convinzione, di puntare ugualmente una fetta di risparmio, una quota di risparmio anche in strumenti un pochino più aggressivi che possano garantire almeno per una parte di quanto accantonato un extra rendimento? È la seconda che ha detto, nel senso che spesso quando ci troviamo in situazioni di crisi di mercato ci sono delle decisioni che magari non sono totalmente razionali o che sono dettate anche dal panico e dall'emotività del momento, come capita quando abbiamo di fronte dei rendimenti, magari degli andamenti di borsa molto molto negativi in certe giornate che sono veramente critiche. Il nostro compito come consulenti è quello, da un lato, evidentemente di togliere un po' di emotività nelle decisioni di investimento, perché decisioni prese proprio sulla spinta di situazioni drammatiche possono portare a delle conseguenze dolorose nell'attività di investimento in un orizzonte un po' più lungo, e quindi quello che ci cerchiamo di fare è stato da un lato impostare delle attività di, diciamo, come si dice, di asset allocation orientata verso un orizzonte un po' più lungo, perché se noi andiamo a vedere come sono andati gli indici delle diverse asset class, sia azionari o obbligazionari, non è che in questi 2 o 3 anni è andato tutto male. Ci sono dei mercati invece che sono andati molto bene. Sto pensando, se andiamo a vedere il rendimento anche dei mercati emergenti azionari negli ultimi 4-5 anni, ci troviamo di fronte complessivamente nel periodo a rendimenti molto positivi. Quindi noi da un lato cerchiamo di instillare quello che è una banale ma secondo me sempre valida regola, che è quella della diversificazione, primo punto, e dall'altro allungando un po' su asset class dove magari occorre avere un po' di pazienza, ma sicuramente nel medio termine i rendimenti saranno superiori. E infatti il problema è che quando, come dire, hai paura per come stanno andando le cose nel tuo paese, magari sei un po' meno lucido nel poter valutare le prospettive positive invece di altre aree del pianeta. Detto questo, poi ci ritorniamo, prima di risentire Antonio Noto e Giovanna Cerini, volevo sentire Nello da Roma, perché non vedo l'ora di accogliere appunto la sua testimonianza. Nello, buongiorno. Intanto, si è spaventato di quello che è successo nel nostro paese negli ultimi mesi? Che cosa legge sui giornali che la preoccupa di più? Insomma, conosce le dinamiche dello spread. Nello, buongiorno. Sono angosciato, non preoccupato, angosciato. Posso raccontare a tutti che lei ha 92 anni, Nello? Certo, come no. Dalla voce giovanile. Guardi, veramente da fare invidia a tanti quarantenni che ci girano qua intorno, Nello. Allora ci racconti un po' che cosa voleva sapere dai nostri ospiti. Niente, io posseggo dei buoni postali che ho fatto con tanto sacrificio già dagli anni 90. Poi praticamente quando sono crollati, perché una volta davano i buoni postali, partivano col 6% e mano a mano negli anni sono arrivati, quelli che posseggo io, quasi al 10% netto. E questo praticamente a me mi teneva un po' tranquillo, ma adesso sento parlare di crisi, di fallimenti. Io volevo sapere, posso stare tranquillo come tante migliaia di altri vecchi come me, che questi buoni postali sono salvi in qualche modo? Nello, tutto il nostro affetto nei suoi confronti. Io le faccio sentire quello che ha scoperto IPR Marketing a proposito dei buoni postali fruttiferi, perché Antonio Noto, se non sbaglio, è ancora lo strumento considerato sicuro dal maggior numero di intervistati. Sì, assolutamente, addirittura il primo strumento diciamo considerato sì sicuro, con il 43% di preferenze, e segue poi titoli di Stato col 36%, metalli preziosi 28%, depositi sul conto corrente bancario 27%, ma c'è una grande differenza, come vediamo, tra il primo e il secondo: buoni postali fruttiferi 43%, titoli di Stato 36%, quindi sicuramente la percezione è di sicurezza e non di insicurezza. Allora, Paolo Zucca, io non credo che ai buoni postali succederà niente, come dire, le poste continueranno ad onorare quanto promesso ai risparmiatori che hanno deciso di sottoscrivere questi prodotti negli ultimi anni, anche perché il grande risparmio postale va ad alimentare la cassa depositi e prestiti del nostro paese, che a sua volta sta investendo in tante società italiane, per cui un meccanismo che deve assolutamente mantenersi virtuoso. Assolutamente sì, piuttosto forse nel ragionamento del simpaticissimo ascoltatore Nello c'è da tenere presente che i rendimenti vanno sempre calcolati in termini reali, quindi alcuni rendimenti che noi ricordiamo dei bot o dei titoli postali vanno poi calcolati nel periodo in cui venivano dati, è stato il periodo in cui l'inflazione mangiava molto di questo rendimento. Però direi di sì. Però insomma, Nello, lo possiamo dirgli di dormire assolutamente sonni tranquilli. Allora ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi torno dalla dottoressa Giovanna Cerini di Banca Intesa San Paolo, perché anche dal suo punto di vista voglio sentire questo loro sondaggio, questa loro indagine, che tipo di evidenze ha manifestato relativamente alla scelta degli strumenti di investimento da parte appunto dei 1053 capi famiglia interpellati. E poi volevo anche avere qualche dettaglio in più su questa curiosa monografia che è stata condotta sui baby boomer. A proposito di plus che cambia pelle, ha cambiato pelle, no, non tanto, diciamo che si è mantenuto sempre su standard abbastanza tradizionali anche nel formato in questi 10 anni. E però, caro Paolo Zucca, c'è un ascoltatore, Matteo, che ci ha chiamato, ma ci ha anche scritto al 349-238-6666 chiedendo come mai avete tolto tutte le obbligazioni corporate con tutti i tipi di rating, sia dal Sole che da Plus. È proprio banale la risposta. Sì, che però ha una sua complessità, nel senso che molto materiale tabellare passerà, ancora di più nei prossimi anni, passerà su internet e su altri strumenti. Fra l'altro ricordo in questa occasione che Plus 24 è anche sul nostro sito internet sole24ore.com. Mi rendo conto che in questo momento non tutti ancora in Italia hanno internet, però se immaginiamo un'evoluzione, certamente alcune informazioni di base e tabellare finiranno appunto su uno strumento digitale, e la carta naturalmente rimarrà importante per altri tipi di informazione. È una scelta, mi rendo conto, che in qualche caso può dispiacere. Dalle obbligazioni societarie al mattone, Anna ci chiede: i mattoni sono ancora un buon investimento? Io ritengo sempre che relativamente al mattone, a parte il fatto che il mercato sta vivendo un momento di difficoltà per tante ragioni, per le banche che non erogano credito, almeno non tanto quanto in passato, per l'acquisto di una casa, la disoccupazione, il PIL che scende e tante cose, il mattone rimane sempre un investimento che ha proprio un profilo personale molto marcato, secondo me, perché c'è chi ci crede molto. Paolo, che cosa ne pensi? C'è chi chiaramente lo valuta come investimento alternativo all'obbligazione, alla borsa in questo momento, ma è sicuramente un asset particolare. C'è mattone, mattone. Il mattone per viverci, il mattone per i propri figli, per i propri stretti familiari, ha comunque sempre senso e naturalmente va preso nelle condizioni migliori. Il mattone come investimento, soprattutto una tassazione che sta aumentando, come l'IMU in questo, sulla seconda casa che è molto alta e ha condizionato momento, molte scelte. Io farei molta attenzione. Attenzione, stiamo entrando anche in un meccanismo del cervello. La casa, il mattone, è vissuto come elemento protettivo di fronte a un esterno offensivo, un esterno difficile da capire. Però attenzione che anche i prezzi delle case, questo Marcolier l'ha scritto 100 volte, anche i prezzi delle case possono scendere. Dopodiché la propria casa, la prima casa per gli stati familiari, ha sempre senso. Il problema è che adesso il mercato è molto rigido proprio perché i prezzi delle case non scendono, i venditori non sono ancora nelle condizioni di dover gettare tutta questa grande mole di invenduto appunto sul mercato. Allora, dottoressa Cerini, peraltro nel vostro rapporto avete affrontato anche il tema della proprietà e dell'acquisto della casa. Il 77,1% del campione abita in una casa di cui è proprietario. E sono ancora molto soddisfatti, insomma, di questo investimento. Sono assolutamente soddisfatti, lo dichiarano la migliore forma di investimento. Quali altri strumenti di investimento hanno scelto i capi famiglia che avete interpellato? Le domande sono, diciamo, fisse, si focalizzano su determinate categorie di strumenti di investimento. Innanzitutto le obbligazioni, che sono nel portafoglio di poco più del 21% del nostro campione. È una percentuale che è in calo rispetto all'anno passato. Sotto questo profilo, da questo punto di vista delle obbligazioni, mi sembra interessante, perché richiama anche interventi precedenti, notare che richiesti se le obbligazioni siano sicure o no aumenta la percentuale di investitori che reputano le obbligazioni uno strumento finanziario rischioso, mentre diminuisce la percentuale di quelli che le reputano uno strumento sicuro. In secondo luogo le azioni, che occupano una quota sostanzialmente stabile, probabilmente ci sono degli investitori che sono affezionati allo strumento azionario, oppure perché magari hanno perso un po' e tentano anche di mantenersi lì per vedere un recupero in prospettiva. Certo. E poi gli strumenti del risparmio gestito, che sono in leggero calo rispetto al 2011 e che sono detenuti dall'incirca l'11% del nostro campione. E poi, come diceva lei correttamente, c'è la casa che viene acquistata per necessità proprie, per le necessità dei propri figli, e questo mi sembra importante sottolinearlo: benché il 77% del totale del campione abbia una casa di proprietà, soltanto il 21%, 22 all'incirca, sta rimborsando un mutuo o con la banca, la larga prevalenza, oppure con la posta, quindi vuol dire che la casa non viene acquistata a debito. Volevo un attimo affrontare con Antonio Noto, peraltro la nostra trasmissione sta già terminando, appena altri 3 minuti di tempo, un aspetto interessante invece emerso dall'indagine Plus IPR Marketing. Noto, per il 75% degli intervistati da parte vostra, appartenente appunto al campione che avete esaminato voi, il piccolo risparmiatore è meno tutelato di prima da possibili dissesti finanziari, addirittura moltissimi temono che si potranno verificare nuovi crack. Certo, infatti, questo è uno degli indicatori che i consumatori ci hanno descritto come maggiore preoccupazione per il futuro. Infatti gli stessi consumatori ci hanno detto che altri casi Parmalat possono essere reali nei prossimi anni. Però devo dire anche come interpretare, perché c'è questa sfiducia nel futuro. È vero che c'è questa sfiducia anche nei consumatori della Germania e dell'Inghilterra, ma il livello di sfiducia dei consumatori italiani è sicuramente molto di più rispetto alla media europea. Da questo, da cosa è dovuto? Sicuramente noi possiamo dire che in Italia alla crisi economica si associa anche una crisi politica, ed ecco che la crisi politica, possiamo dire, non è che è causa della crisi economica, ma comunque sia genera una maggiore percezione negativa sul fatto che la crisi economica possa essere risolta, e possa essere risolta in tempi brevi. Quindi il consumatore che non si sente tutelato, che ha paura anche nel futuro di non sentirsi tutelato, è un consumatore che non vede nelle istituzioni un elemento di garanzia a difesa invece dei propri investimenti, dei propri patrimoni. Quindi è chiaro che il livello di sfiducia degli italiani rispetto all'economia è sicuramente generato anche dalla crisi politica in Italia, che è molto più forte, diciamo, rispetto alla crisi politica che c'è in Germania, in Francia, in Inghilterra. Cioè, noi possiamo dire in questi paesi addirittura non c'è crisi politica, c'è crisi economica. Per crisi politica ovviamente io non intendo il valore elettorale dei partiti, ma intendo la mancanza di fiducia nei confronti dei partiti. Giovanna Cerini, ho davvero 45 secondi di tempo, non di più, ma magari ci anticipa che cosa avete voluto così esaminare affrontando la sfera dei baby boomer, cioè di tutti coloro che sono nati fra il 51 e 76? Ma mettere in evidenza i comportamenti, le idee di questa generazione, che è una generazione veramente di mezzo, che si trova a far da ponte tra che si trova a avere sulle spalle il peso tanto degli anziani in una situazione in cui il sistema di welfare è declinante, che è anche il futuro dei propri figli. Sono proprio i figli che rappresentano l'obiettivo, la preoccupazione, vorrei dire, principale di questa generazione. È per i figli che si lavora, è per i figli che si risparmia, e questo è un po' il tema di questa generazione. Bellissimo questo tema, ci piacerebbe magari affrontarlo, cercheremo di farlo in un'altra circostanza in cui abbiamo più tempo. Paolo Zucca, io e te siamo due baby boomer, da quello che ho capito, quindi stamattina io ci ricado dentro, però di te non svelo altro, che non è carino. grazie a tutti, grazie per a essere stati con noi. Adesso abbiamo la nostra pillola IMSS, l'ultima pillola di questo lunghissimo ciclo andato in onda con la collaborazione dell'IMSS, con la quale abbiamo cercato di capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni, che ha fatto tanto discutere ed arrabbiare molti, soprattutto gli esodati, ma tant'è, questa è. Restiamo sul tema della gestione separata e lo affrontiamo oggi relativamente alle pensioni di vecchiaia. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. La riforma prevede l'aumento dell'età pensionabile anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nella gestione separata IMSS? Sì, la riforma prevede che anche i requisiti di età stabiliti per il pensionamento di vecchiaia nella gestione separata siano aumentati come per tutti gli altri casi. Il pensionamento di vecchiaia segue esattamente le regole della pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi IMSS, commercianti o artigiani, con tutti i relativi requisiti. Almeno 20 anni di contributi, 66 anni di età anagrafica minima nel 2012, con gli incrementi legati alla speranza di vita per gli anni successivi. Importo mensile della prestazione non inferiore a 1,5 volte l'ammontare mensile dell'assegno sociale IMSS, che per il 2012 è di 644 euro mensili. Grazie a tutti, Paolo Zucca che è già andato, Antonio Noto di PR Marketing, Stefano Grassi, Banca Generali, Giovanna Cerini di Intesa San Paolo, Matteo Comes in assistenza tecnica, Marco Lombardo per l'assistenza in redazione, Salvadanaio torna lunedì, per la prossima settimana ci saranno in alternanza Valentina Furlanetto e Valeria De Rosa. A tutti, buon fine settimana.